La velocità si calcola dividendo i chilometri percorsi per le ore di cammino. Ricordate, il calcolo va fatto su 6 giorni.